Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. La squadra del sabato del villaggio è pronta, c'è Gianni in regia, c'è Cristian dall'altra parte del vetro, è già pronto Enrico Pagliarini, non vi dico cosa sta combinando, ma lo sentirete, dopo lo vedrete anche perché ci collegheremo in diretta con Periscope. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia, e i soliti due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chi usa qui Twitter il sabato del villaggio è un po' lungo, allora usiamo sempre le iniziali cancelletto ISDV. Anche per questo fine settimana però regaleremo 7 coppie di biglietti per le 7 date dei concerti di Enrico Ruggeri. Tra poco vi dirò come, però voi tenete telefonini e smartphone a portata di mano, perché anche questa settimana 7 coppie di biglietti per le 7 date. Tra poco per tutti i dettagli. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Parliamo assolutamente appunto con Enrico Pagliarini delle tecnologie, proveremo insieme anche in diretta video con Periscope, ve lo dicevo, con tutti gli apparecchi utili per la salute. Parliamo di live, riparte il tour di uno dei trionfatori delle classifiche degli ultimi mesi, Caparezza. Poi tanto cinema, tutte le novità nel weekend, ma subito ci prepariamo per una Pasqua in cucina, ma non solo, con una grande protagonista della TV. Benvenuti nella mia cucina. Incominciamo con una ricetta che arriva da casa, la ricetta molto realtimetv.it, che mi arriva da Eleonora da Sanremo, che ringrazio, e che ha portato una ricetta con le uova, per quello ho voluto incominciare così, perché a Pasqua le uova sono fondamentali e lei ha questa ricetta di uova poché molto carine che andiamo a fare insieme. Seconda ricetta invece molto classica, perché comunque la Pasqua si avvicina, invece della solita pasta al forno o agnolotti come mangiamo noi in Piemonte, vi voglio consigliare un rotolo fatto con una crespella e dentro un radicchio, molto molto buono. E poi c'è la ricetta misteriosa. Pasqua, è quasi tutto pronto per la festa in famiglia o non in famiglia, perché si sa, Pasqua un po' con chi vuoi, perché Natale lo fai con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Chissà con chi e come passerà Pasqua la donna che da qualche anno è la nostra guida per tutto ciò che fa rima con casa. Quando le cose ce le consiglia lei, non le facciamo per bene. Buongiorno a Benedetta Parodi, buongiorno Benedetta. Buongiorno a tutti, ciao, buona Pasqua, un giorno in anticipo. Insomma, noi andiamo in onda di sabato, grazie Benedetta. Benedetta, tu intanto come la passi questa Pasqua? Guarda, quest'anno come sempre sono a Riccione, che è un posto che io amo molto e a Pasqua veniamo sempre, però non lo passo ai fornelli quest'anno, andremo al ristorante, non capita quasi mai, ma quest'anno abbiamo una congiunzione di cose per cui in casa non riusciamo a starci e allora vabbè, abbiamo scelto un posto che ci piace e lo passeremo al ristorante. Beh, va bene anche così, perché dopo tutto, se c'è una cosa che ci hai insegnato è la cucina è una gioia, cucinare per i propri cari è un piacere senza troppe ansie però. Sì, esatto, ma guarda, a me cucinare a Pasqua piace sempre, devo dire, perché forse rispetto al Natale che è più impostato anche come cibi che sono un po' sempre gli stessi, ci sono più tradizioni, a Pasqua io sono abbastanza libera di variare, a volte faccio anche solo un buffet e quindi è meno faticoso. Quest'anno vabbè va diverso, però ne ho fatti tanti qui a Riccione cucinando anche velocemente, insomma, senza dover stare proprio tutto il giorno in cucina. L'idea del buffet, il consiglio del buffet mi piace molto, perché così è piuttosto informale, si può fare appunto Pasqua con chi vuoi, ma anche Pasqua senza l'ansia delle mille portate di Natale. Infatti, sì, guarda, da noi c'è solo una tradizione di mio marito che è romano e vuole le uova sode ripiene, ma è una cosa proprio veloce che si fa senza problemi, e il loro salame romano che si chiama coratella, e quelli ci devono essere, insomma, se siamo a casa. Ma poi essendo al mare a me piace fare anche, che ne so, un bel sauté di cozze e vongole, una bella pizza, qualche focaccia, un po' di salumi, insomma, e poi magari una pasta al forno che puoi fare, sai, metti a scaldare all'ultimo momento e via. Poi c'è l'uovo di Pasqua, c'è la colomba, insomma, te la cavi anche abbastanza in fretta. Io guarda, faccio pranzo in famiglia e io mi sono autocandidata a portare l'uovo e la colomba, quindi non cucino domani. Oppure io porto il vino, sai, qualcosa, io porto il vino. Ma guarda, me lo lasciano fare senza problemi. Benedetta, tu hai un po' rivoluzionato il nostro modo di rapportarci alla cucina, perché anche la televisione prima della tua rivoluzione, insomma, ci mostrava spesso cuochi professionisti di grande abilità, con grande, non c'era alternativa, ci sentivamo tutte poco all'altezza di questa grande cucina elaborata. È vero, ma sai, la mia fortuna è proprio quella di non venire da una scuola di cucina, quindi io quello che facciamo tutti a casa l'ho portato in televisione, forse per quello che poi la gente è riuscita a seguirmi con facilità, no? Beh, devo dirti che secondo me nemmeno tu te l'aspettavi o qualcosa del genere. Ma guarda, io l'ho fatto perché era quello che amavo, quindi quando finalmente mi è capitata la possibilità di fare come lavoro veramente, di seguire la mia passione, no, guarda, non mi sono neanche posta il problema se avrebbe avuto successo o meno, ero già felice all'idea di poterlo fare e poi tutto è venuto di conseguenza. Noi adesso ti vediamo in questo periodo, allora più o meno all'ora di qua, mentre prepariamo cena, 18:40. Sì, fa ridere, anch'io mi guardo mentre preparo cena, c'è questo effetto straniante che c'è sempre stato, perché ultimamente i miei programmi hanno sempre avuto quell'orario, no, dalle 6 alle 7 io cucino e mi guardo cucinare, mi fa molto ridere, a volte capita che faccio anche lo stesso piatto. Misa la bim, è incredibile, quindi sei una di quelle che si riguardano, perché c'è chi non si riguarda, non si riascolta. Devo dire che essendo delle produzioni che io diciamo registro tutte d'un botto, così mi rendo conto un po' di quello che faccio ed è proprio l'orario in cui sei in cucina, accendi la televisione e dico vabbè, allora guardiamo un po' come va, e fa molto ridere questa cosa, devo dire. 18:40 su Real Time, allora, molto sì, bene. In realtà inizia alle 18 perché c'è la replica della settimana prima, quindi uno può anche iniziare alle 6 e vede due puntate. Anche perché poi vabbè, ormai con la rete uno recupera tutto, però magari si fa un ripasso. Sì, dalle 6 alle 7:10 diciamo che è una full immersion nella cucina. Una delle cose che mi diverte di più è il fatto che il pubblico ti possa suggerire delle ricette sul sito. Tantissimo, guarda, ma sia il pubblico a casa che anche quando vado in giro, per esempio oggi a pranzo sono andata in un bel ristorante di Riccione dove ho mangiato una ciambella molto buona e allora ho subito chiesto la ricetta, la cuoca gentilissima me l'ha data e quindi prossimamente la farò e sicuramente citerò la cuoca e il ristorante, cioè è bello, è un modo di dividere le cose buone, no? Poi adesso non si può semplicemente cucinare qualcosa, devi fare una cosa che possa essere molto etnica, molto economica, molto light, molto vegetariana, perché ci siamo andati a mettere un po' nei pasticci, perché poi ogni ricetta, vabbè, dire che era molto golosa era troppo facile, allora bisognava sempre trovare l'etichetta giusta. Ma sì, dai, per riderci un po'. Tu hai una quantità di follower su Twitter abbastanza impressionante, stavo guardando prima, 92.200. La gente ti manda le cose, ti chiede consigli, qual è la tua interazione con il tuo pubblico? Ma guarda, io i social li uso più che altro così, proprio per raccontare qualcosa di mio in più, per dividere i momenti belli, per cui le ricette o magari a volte le vacanze o qualche momento speciale della mia vita. E poi sì, mi piace magari vedere le reazioni, i consigli, però a volte è anche utile. Mi ricordo dove uno o due volte che ho chiesto dei consigli e Twitter è stato veramente utile. Una volta ero a Madrid, ho twittato qualcosa e mi è arrivato un Twitter dicendo ma sai che a Madrid c'è il ristorante più antico d'Europa, si chiama pa. Niente, ci sono andata, è stata un'esperienza pazzesca e mi è arrivato da un follower di Twitter. Beh, bello anche poter interagire. No, una bella interazione. Una delle ultime cose che hai postato sono le immagini bellissime di una casina Valadier sotto la pioggia a Roma con tutto il casting di Bake Off Italia, sì, che esatto. Quindi abbiamo la certezza torna. tornerà a settembre, sì, settembre-ottobre, adesso la data precisa non lo so, però insomma sono in corso i casting e ci stiamo lavorando. Sì, come sì, al sì, solito il talent culinario più sereno, più sorridente, più dolce. Sì, dai, più dolce. Però poverini sotto la pioggia mi hanno fatto molto ridere. Ma sai che c'era una signora che tipo a 5:45 del mattino, io sono arrivata lì verso le 7:30, però quei tecnici erano lì da molto prima, no? A montare tutto, e c'era questa signora con la torta e i tecnici che aspettavano di entrare, no? C'erano state 3 o 4 persone, e la signora è arrivata e dice: chi è l'ultimo che mi metto dietro? E dice: no signora, guardi, lei è la prima, noi siamo venuti qua a lavorare. Poverine. Persone comunque arrivate prestissimo la mattina con le loro torte da completare, veramente una grande passione quella che li muove, eh? Ammirevole. Che meraviglia. Benedetta, è anche una grande passione quella che trasmetti tu, mi piace sempre sentirti perché si vede che non c'è niente di finto, niente di... è proprio una passione vera, sei riuscita a far diventare lavoro una cosa proprio bella. Sì, grazie, è vero, è proprio una passione, quello sì. Benedetta, ti lascio ai tuoi ragazzi perché come abbiamo sentito ti abbiamo disturbato nella vigilia di Pasqua. No, ma disturbato sei mai. A Riccione con piacere. I ragazzi. Quanti anni hanno adesso i tuoi bimbi? 12, 10 e 5. Ah beh, quindi bimbi mica tanto perché cominciano a diventare grandi. Guarda, ti svelo che sono qui fuori da un camerino con Matilde che entra, esce e mi fa vedere dei vestiti e io a seconda se arriccio il naso o sorrido, lei capisce che se mi piacciono o no. No, non siamo sai quanto vorrei delicato. Essere lì, non sai quando vorrei essere lì a fare shopping. Oh, che meraviglia, Benedetta, guarda, sono qua in radio, altrimenti correrei lì anch'io a scegliere i vestiti, che è una cosa bellissima tra mamma e figlia. Davvero. Grazie mille. Senti, per essere stata con noi. Buon appetito a tutti e buon appetito allora. Grazie Benedetta, a presto. Ciao. Il sabato del villaggio. E aspettiamo i vostri messaggi al 349-238-6666 per le 7 coppie di biglietti per le 7 date dei concerti di Enrico Ruggeri, Macerata, Milano, Torino, Lucca, Brescia, Campione d'Italia e Roma. Mandateci il vostro nome, la città, quindi la tappa del tour che preferite, e il titolo dell'ultimo singolo di Enrico Ruggeri. SMS al 349-238-6666. Ma quindi parliamo di live. In attesa di quello di Enrico Ruggeri, parliamo di un personaggio che trionfa ormai da un anno con il suo ultimo album. Nel 2014 ha dominato tutte le classifiche, ha vinto tutti i premi che contano, ad esempio la Targa Tenco come album dell'anno. Pubblicato il 22 aprile scorso, questo album, in cui ogni brano è ispirato a un'opera d'arte, è stato certificato platino. Un album quindi che resiste mese dopo mese. Il video di Mika Van Gogh, la stiamo ascoltando, è uscito il 26 febbraio. Due i tour, prima il Museica Tour, poi il Museica Tour 2 The Exhibition. Questa sera al Pala Florio di Bari, il 10 al Pala Panini di Modena, l'11 al Palais di Saint-Vincent. Ma come si fa a far resistere un album così a lungo? L'abbiamo chiesto proprio a Caparezza. Beh, io sto facendo il mio per farlo resistere, in realtà, nel senso che faccio molti concerti e questa è sempre stata una mia fissazione, nel senso che penso da fruitore di concerti, perché li vado a vedere. In questo momento sto indossando una maglia degli Who che ho visto 5 giorni fa l'O2 Arena, e quindi sapendo cosa voglio trovare su un palco, cosa mi piace, cerco di trasmettere le stesse sensazioni che vorrei ricevere o che ricevo sul palco, e lo faccio dove posso. E questa cosa, secondo me, è la vera controtendenza adesso, perché non è così semplice, secondo me, tirare avanti per tanti giorni un uno spettacolo che tra l'altro ha come gran parte delle canzoni quelle dell'ultimo album. Tu sai che di solito degli artisti si rimpiangono sempre i primi, no? Io invece cerco di invertire questa cosa portando all'attenzione in ogni concerto la maggior parte dei pezzi dell'album più recente. Cosa significa? Che se il primo a crederci non sei tu, di conseguenza non puoi aspettarti qualcosa del genere da chi viene ad ascoltarti. Leggevo proprio un'intervista che hai rilasciato recentemente alla stampa, l'effetto è Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, cioè alla fine le persone te lo chiedono, lo devi fare e devi ritrovare l'entusiasmo anche nel fare quelle cose lì, però non solo. Sì, io ho ricevuto una lezione, una sonora lezione dei Depeche Mode quando li ho visti proprio al forum di Assago, perché a Just Can't Get Enough è un pezzo che ha più o meno la mia età, voglio essere buono, in realtà è più giovane, ma di poco. e quando vai a vedere i Depeche Mode non ti aspetti, io non mi aspettavo che la proponessero, pensavo dopo oltre 30 anni che quella canzone facesse venire loro una sorta di repulsione, anche perché è completamente distante da quello che fanno adesso. Sai, i Depeche Mode hanno avuto due periodi, il periodo scuro da Black Celebration in poi li ha portati a prendere le distanze anche musicalmente da I Just Can't Get Enough, e invece l'hanno fatta come se fosse stata la prima volta, cioè con un entusiasmo reale, non finto, un entusiasmo vero che è proseguito anche dopo la canzone, che andava avanti a cappella col pubblico che cantava e loro che la riprendevano, e questa è stata una grande lezione per me. Vedi che si impara ad andare a vedere i concerti, non deve mai entrare la routine sul palco, perché la routine è dannosa come sentimento, lo scocciarsi mentre ti esibisci è qualcosa che trasmetti inevitabilmente. Invece quando bisogna, secondo me, scremare tutto quello che accade intorno ad un pezzo e ricordarsi che fa parte del tuo DNA e che non c'è niente di male a cantarlo sul palco. Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano, la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota, fa la storia senza disco nel video e social. Allestire un tour, ma anche riallestire un tour, come riallestire una mostra, un'exhibition, cioè ti sei divertito a ricostruire? Sì, questa è la seconda, parlando appunto di routine, a un certo punto rimescolo le carte in gioco ed è venuto fuori che questa seconda versione del tour di Museica è ancora più museale, tanto che il palco diventa praticamente la stanza di un museo. Di fatto visivamente c'è un grosso schermo che fa parte, che è praticamente un quadro che si rinnova canzone dopo canzone, e ci sono le due entrate, due grosse porte che rappresentano l'entrata e l'uscita da questo percorso. E quindi è come se dietro il palco ci fossero altre stanze del museo da cui arrivano gettoni portati da addetti del museo. Insomma, è come se fosse un museo, in pratica. Quello che io faccio sul palco è incastonare anche pezzi di altri album, però contestualizzandoli in un mio particolare discorso sulla storia dell'arte, che più che sulla storia dell'arte è sull'esigenza di comunicare, che non avviene soltanto attraverso la musica, ma anche attraverso altre forme d'arte, tra cui il disegno. E quindi è un ipotetico viaggio dalle incisioni rupestri alla pop art di Andy Warhol, passando anche dall'arte sacra, dall'impressionismo, eccetera. Tutto questo senza fare il professorino, però. Cioè, però i professori l'hanno usato il disco, pare. Sì, in alcune ogni tanto mi scrivono che alcuni docenti, parlando di Van Gogh, cercando di renderlo, di trovare una chiave per renderlo appassionante, utilizzano mica Van Gogh, per esempio, come canzone. Anche perché parla strettamente della vita di Van Gogh, è nata in realtà da una vera e propria folgorazione, perché adesso io mi sento quasi guidato da questo spirito. E senza... Nel video ti sei addirittura immaginato di entrare nel suo letto? Sì, perché tra l'altro hanno ricostruito la stanza, è stata ricostruita la stanza, la famosa stanza di Van Gogh, con tutte le prospettive sballate, tra l'altro, ed è come entrare dentro un quadro senza farsi di nulla, perché poi alla fine non abuso di nulla. E quindi oltre quello anche altri pezzi sono stati usati didatticamente, tra cui forse il pezzo più difficile dell'album per me, almeno nella scrittura, che cioè, ci ho messo veramente tanto a scriverlo, a concepirlo, che Argenti vive e che parla di questo personaggio della Divina Commedia che veniva saltato a piè pari nelle spiegazioni durante l'insegnamento nella scuola media, perché era un passo piuttosto controverso dove Dante diventava insomma a sua volta iracondo nel girone degli iracondi senza rendersene conto, solo per tirarsi un sassolino dalle scarpe contro il suo vicino di casa. Difatti era un dissing di Dante al vicino di casa che non c'entrava niente, era tra l'altro ancora in vita durante la stesura della Divina Commedia, e io ho fatto il contro dissing di Filippo Argenti che dà una sonora lezione però in rima a Dante Alighieri. A Filippo Argenti! Mica Van Gogh, appunto l'ultimo video, ma anche un testo nel quale tu hai parlato in maniera più o meno ironica dei ragazzi di oggi. Quando è uscito il disco l'anno scorso abbiamo parlato del tuo rapporto con i social, visto che comunque si citano anche nel brano. È cambiato in un anno? Il mio rapporto con i social è cambiato... Io mi ritengo totalmente incapace nell'utilizzo di questi sistemi, ma lo imputo senza vergogna, anche se ci sono persone della mia età che in realtà sono molto più brave di me, però lo imputo al mio essere cresciuto per tanti anni senza avere la minima idea di cosa fosse un social. Mi piace informarmi, utilizzo altri canali, non tanto quelli insomma canonici che sono diventati i social network. Con Facebook ho sempre avuto un rapporto molto difficile, perché non è facile abituarsi all'essere giudicato da chiunque, positivamente o negativamente che sia. Da poco sto utilizzando Twitter, che mi sembra un po' meno invasivo. Però anche lì penso di utilizzarlo male, perché non riesco mai a parlare di me, non so come si usi, no? Divento pazzo perché non so come. Ogni tanto penso, ma oggi non ho twittato niente, sarà giusto o sbagliato, non lo so. Grazie alla prestazione, sì, del social network. Esatto, cioè non lo faccio in maniera spontanea, lo faccio forzandomi ancora, no? Questo però devo imparare, cioè è una mia lacuna. Non voglio fare quello che si mette a puntare il dito sempre, perché non mi interessa, penso che sia una mia lacuna, come io non capisco la lirica perché non l'ho studiata a fondo. Quando ho scoperto che Chiaro di Luna di Beethoven veniva fuori da un suo percorso interiore dopo aver subito, dopo essere stato lasciato dalla sua donna e che era stato concepito su una marcia funebre, ha avuto per me un fascino che prima era del tutto occluso, e quindi imputo tutta questa mia incapacità nell'usare il social network alla mia vita distratta da altre cose. Caparezza non mi piace perché è troppo politico. Troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo. Caparezza non mi piace perché troppo politico, perché vivo in un talk show dove se parlo troppo politico, perché sono più vecchio di Yoda, perché seguo la moda del paleolitico, sono politico, l'ennesimo. Prevedi il flop come l'exit poll, il mio lessico poco compreso, chi mi critica lo fa per partito preso. Probabilmente, non so se adesso hai sentito, che questa nuova mania per Periscope, che è questa app che permette di andare in diretta in qualsiasi momento. Io sono stata a un concerto la scorsa settimana e le mie amiche mi hanno chiesto mandami una parte di una canzone via WhatsApp. Già adesso è cambiato tutto, perché alla tappa dopo dello stesso concerto una mia amica mi ha mandato la stessa canzone live su Periscope, quindi preparati perché la gente sarà lì col telefonino a trasmetterti già live. Ormai è una follia. No, perché la follia è il tempo giusto, cioè è la contemporaneità, e alla fine io cerco di trovarla nella musica. Esiste anche una contemporaneità sociale che utilizza questi mezzi. ti dico la verità, cioè quando ho cominciato a comporre le mie prime cose, che non c'era internet, dovevo avvalermi di... era problematico perché dovevo prendere un Fostex 4 piste pieno di fruscio, non era possibile fare un errore perché non potevi copia incollare, spostare, non c'era illogica ad aiutarti, non c'erano i programmi, diventava tutto molto complesso. In quei giorni, mentre smadonnavo a destra a manca, pensavo: ma perché non esiste un sistema per fare le cose in maniera meno caotica? Adesso che li stanno inventando questi sistemi, sarebbe stupido da parte mia andare contro. Cercherò di capire anche questo nome che mi stai dicendo tu adesso, ma penso di averlo letto su Twitter di Jovanotti, perché lui è super avanti su queste robe qui. Penso che lui le pubblicizzi prima ancora che si diffondano. Non mi è nuovo questo nome, che ho già dimenticato, vedi? Periscope, te ne ricorderai. Primavera, siamo in un momento bellissimo, in un ufficio vediamo sole che entra, finestre finalmente aperte, voglia di scrivere, di disegnare, di fare cose nuove. Quella ce l'ho sempre, ma ritengo che la maggior parte delle volte non vada soddisfatta, perché in alcuni casi io credo che bisogna cominciare a scrivere quando è la reale esigenza di farlo, di comunicare delle cose che a voce non riuscirei, e poi ho comunque un modo di tenermi tutto sempre troppo dentro. Come persona non comunico mai la mia vita privata o le cose che sento ecco perché quasi sempre ho avuto delle posizioni rispetto a degli argomenti piuttosto che rispetto a me stesso. Siccome penso sia arrivato il momento di fare i conti con me stesso, e questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso, ho bisogno di ponderare bene i prossimi passi, quindi non posso mettermi a scrivere proprio le prime cose che mi vengono in mente, ma devo trovare un modo per attuare questo progetto che sia ancora una volta fatto alla mia maniera e basta. Allora ti aspettiamo, grazie. Prego, grazie a te. Parleremo di calcio e di tecnologie. Prima però fatemi ricordare il numero per i nostri sms: 349-238-6666, per aggiudicarvi le 7 copie di biglietti per le 7 date dei concerti di Enrico Ruggeri. Dovete mettere il vostro nome, la città, la tappa che preferite tra Macerata, Milano, Torino, Lucca, Brescia, Campione d'Italia e Roma, e il titolo dell'ultimo singolo di Enrico Ruggeri. Attenzione, perché Tre Signori è il penultimo, quindi il nome dell'ultimo singolo di Enrico Ruggeri, uscito proprio solo qualche giorno fa. Insomma, ci ritroviamo tra pochissimo. Calcio, tecnologie, aspetto i vostri sms e a tra poco. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio, particolarmente affollato questo momento. Abbiamo anche Giovanni Capuano, che ha già acceso Periscope, ma adesso lo accendo anch'io perché stiamo per fare delle prove. Facciamo con Enrico Pagliarini. Buongiorno Giovanni, che bello averti in diretta. Buongiorno al sabato del villaggio, che bello che ci siano le partite. Oggi è un finto sabato. È un finto sabato, ma le partite sono vere. Come sta andando il campionato? Guarda, sta andando che intanto la partita più interessante c'era alle 12:30, quella tra Roma e Napoli, l'ha vinta la Roma 1-0, gol di Pjanic, il che significa che per il Napoli si allontana al terzo posto, quello che vale la Champions League. E insomma, questa era la partita più interessante di tutte ed è una partita che avrà dei risvolti, insomma. Tra l'altro c'erano anche preoccupazioni per l'ordine pubblico, sono passati 11 mesi, insomma, lo saprete tutti dai fatti del 3 maggio dell'anno scorso, la morte di Ciro Esposito. Fin qui è andata tutto bene, l'Olimpico era blindato da forze dell'ordine e Stewart, c'è stato qualche striscione che era meglio che rimanesse a casa, però insomma, per il momento il bilancio è buono. Invece siamo intorno al 35esimo minuto su tutti gli altri campi. C'era Christian che esultava di là dal vetro. Allora, ti do i risultati che fin qui si sono sbloccati. Quello più importante è la Lazio, che sta vincendo 1-0 a Cagliari, ecco, con il gol di Klose al 31esimo minuto. Lazio che in questo momento è assolutamente terza in classifica. Poi c'è l'Inter che sta vincendo 1-0 con il Parma, gol di Guarin al 25esimo e deviazione di Feddal, che insomma ha ingannato il portiere del Parma. Ancora ancora l'1-0 del Sassuolo con il Chievo, gol di Berardi su calcio di rigore al 23esimo, il 2-0 del Verona sul Cesena, Toni all'ottavo minuto e poi Juanito Gomez al 32esimo. E ti segnalo anche che sta vincendo anche il Genoa con l'Udinese 1-0, gol di De Maio. Sta facendo 0-0 il Milan a Palermo, incredibile gol sbagliato dal Palermo, Vasquez praticamente a porta vuota, a un metro dalla porta è riuscito a metterla fuori. Sta vincendo il Toro 1-0 a Bergamo con l'Atalanta, gol di Quagliarella. Questo è il quadro quando mancano una decina di minuti alla fine del primo tempo. Gli aggiornamenti nel GR24 delle 16, poi alle 16.30 ti aspettiamo ancora a Sabato del Villaggio. Noi siamo qui tutto il pomeriggio e la sera, io però adesso sto qui perché voglio sentire Pagliarini. No, anche perché adesso accendo anch'io la diretta su Periscope. Enrico, ti accolgo con una musica? Buongiorno. La vuoi sentire? Vuoi sapere cosa ho scelto? Sentiamo. Sentiamo. Under pressure. Io ho acceso anche Periscope perché voglio mostrare in diretta quello che accade su Radio 24, perché Enrico Pagliarini ha un sacco di gadget, yes, come sempre al Sabato del Villaggio, per fare delle prove, allora, di qualcosa oggi che riguarda la tecnologia. Sì, oggi facciamo delle prove sulla mia salute, ma in generale sulla salute. Sapete che negli ultimi anni c'è stato un boom, una euforia giustificata dall'evoluzione tecnologica, soprattutto nel mondo fitness, cioè io che misuro quanto corro durante la giornata, quanta attività sportiva. C'è un po' meno euforia, ma perché stiamo parlando dei primi anni di vita di un'altra evoluzione che riguarda invece la salute. Quante persone, o perché sono brave si tengono controllate, o perché devono tenersi controllate, si provano la pressione? Ed è una delle cose, bisognerebbe farlo sempre. Quante persone si devono provare la glicemia? E anche quello ogni tanto, insomma, per sapere se è sotto controllo bisognerebbe, esatto, farlo. Oppure se uno dei problemi di salute lo deve fare. Insomma, allora, oggi abbiamo scelto questi due parametri molto importanti, cioè la pressione arteriosa e la glicemia. Io ho fatto un po' di prove e sono in questo campo molto ignorante, quindi non so bene come muovere. Io ho fatto delle prove anche questa mattina, mi sono sforato le dita un po' di volte per... È successo di tutto in redazione a Radio, sì, 24 per provare a... Però, funzionato tutto, no? Sì, allora, sì, noi sì, vogliamo, ha funzionato, vogliamo raccontare agli ascoltatori questa evoluzione molto interessante. Faccio una premessa e spiego quali sono i motivi per cui ne parliamo in uno spazio di tecnologia. Allora, strumenti che servono per misurare la pressione o la glicemia esistono da anni, certo, strumenti da casa, quindi che uno si può portare a casa oppure anche in giro quando va in vacanza o è in giro per lavoro. Che cosa sta succedendo invece in questi anni? Che grazie all'evoluzione tecnologica questi strumenti, e ne sono nati anche di più nuovi, si possono connettere allo smartphone. Infatti io quando sono venuto ho detto, allora ho tutto, prima cosa lo smartphone. Li mostriamo anche su Periscope. Eccoli, allora, qua, perché siamo anche in diretta video su Periscope. Ho uno smartphone e poi alla mia destra c'è un sfigmomanometro, ma insomma, comunque uno strumento, sì, per misurare la pressione, sapete, con il classico strumento che si mette al braccio. Bluetooth si collega allo smartphone e tra poco faremo la prova della pressione. Questo in particolare è un Cardio, scritto con la Q. E poi alla mia sinistra invece ho uno strumento che serve per misurare la glicemia, un glucometro della iHealth. Ci sono varie marche, io oggi ho scelto Cardio e iHealth, che a mio parere sono le più evolute anche come gamma, anche come possibilità dell'applicazione, perché poi tutto ciò, e qui sta la differenza, si connette allo smartphone via Bluetooth. Io posso raccogliere i miei dati nelle applicazioni e quindi posso fare statistiche, quindi provando, certo, questi parametri tutti i giorni, io dopo un mese ho una statistica di come vanno questi valori. Condividerli con i miei... Li posso magari già mandare al medico? Posso mandarli al medico, ad esempio, posso anche condividerli con i miei familiari, quindi io potrei vedere, ad esempio, se ho un parente che soffre, che ha una patologia particolare, posso, che ne so, diventare un follower perché se uno apre, certo, dentro, e ti c'è l'applicazione cardio dove c'è proprio, ci sono i follower e i following, quelli che seguono me e quelli che io seguo. Beh, oddio, non che Twitter, no? mi debba interessare il dato clinico di qualcun altro, ma magari appunto se è un parente, certo, è una sì. cosa privata, perché certo. chiaramente poi queste applicazioni hanno una attenzione particolare alla tutela di questi dati che devono rimanere in una cerchia ristretta, non è che vengono messi online, però possono essere condivisi tra amici e parenti, eccetera eccetera. Allora, facciamo la prova della glicemia. Cosa dici? Proviamo. Allora, io mi sono preparato tutti gli strumenti, quindi il lo strumento che serve per forare il pungidito. Adesso io estraggo una... Si è sentito il rumore della scatoletta delle striscette. Allora, una striscetta che inserisco nel glucometro, io inserisco la striscetta e il glucometro si accende, quindi dice qua sta succedendo qualcosa, mi preparo, però fin qua, come dire, fin qua è esattamente quello che succede con un glucometro normale, ma si è svegliato, si è anche l'iPhone, okay. il tuo telefonino si è attivato. Esatto, perché le due cose sono connesse tramite il Bluetooth. Naturalmente... Ti faccio subito la domanda, sì. Tu davanti a te hai un iPhone, anche perché tu li provi tutti, sì. gli smartphone. Tutto questo si può usare anche con altri, allora, tipi di molte, smartphone? Sì, allora molte di queste di questi strumenti hanno la loro applicazione sia per Android che per iPhone. In questo particolare caso, con questo glucometro, abbiamo l'applicazione ancora solo per iOS, però diciamo che quando ci proviamo la pressione è anche per Android, quindi diciamo che l'evoluzione, visto che stiamo parlando di prodotti nuovi sostanzialmente, di certo. cui si parla già da un po' di tempo, però un conto è noi giornalisti parliamo quando vengono presentati questi prodotti, un po' un conto è la diffusione sul mercato, quindi certo. stiamo parlando di prodotti che cominciano a diffondersi proprio in questi diciamo tempi. Subito agli impressionabili che ci stiano seguendo via Periscope che su Pagliarini si sta per bucare il dito perché bisogna farlo per provare la glicemia, perché ci vuole una goccina di sangue. Sì, mi sono fatto, ecco qua. Allora, devo... Come in un glucometro normale, sì. appoggi la striscetta reattiva che assorbe. Sì, ne ho messo poco di sangue, comunque vabbè, probabilmente ne ho messo un po' troppo poco. Infatti c'è qualcuno che commenta splatter, sì, è un po' splatter. Sì. C'è intanto Mau Marinelli, chiocciola Mau Marinelli, che ci segnala che con Apple Watch... Ho messo un po' troppo poco di sangue. Vabbè. Deve rifarlo. La misurazione bravo, della glicemia sarà possibile con Apple Watch anche senza bucarsi il dito. Bah, sì, poi vedremo. Insomma. Poi sentiremo qualche medico che ci possa dire se tutto questo è affidabile. Vabbè, facciamo un altro buco. Io non sono tanto bravo. Infatti la prova su di me è perfetta, perché diciamo, essendo io... poco bravo in questo tipo di tecnologie, cioè, o meglio, in questo tipo di esami medici. Adesso io prendo una striscetta di quelle che servono per un aghetto. La lancetta, sono abbastanza tecnica, perché sì. No, perché allora, siccome io ho il mio papà che si deve controllare la glicemia, io posso dire che con lui, allora io lo tengo molto controllato, gli faccio segnare tutti i dati su un quadernino e poi io faccio il grafico quando poi deve andare dal medico. Ma tutte queste cose le potresti questo... fare con lo smartphone. Ecco. Allora facciamo il buco nel mio dito, speriamo che stavolta il buco diventi un po' più... Ecco qua. Adesso sì che esce del sangue come si deve. Chi ci sta ascoltando alla radio dice... Ecco qua, il glucometro ha iniziato 4, 3, 2, 1, fa il conto alla rovescia e 108. Va bene? Sì, io direi che va benissimo. Perfetto. Anche perché appunto abbiamo pranzato 2 ore fa, quindi 2 ore dopo il pranzo 108 di glicemia. Allora, naturalmente... E in tutto questo, ecco cosa sta succedendo, al di là, insomma, rispetto a quello che accade con un glucometro normale esatto. che qui si io posso, si fermerebbe. Posso dire all'applicazione carica i dati, e vedi l'applicazione già mi dà i dati degli ultimi, carica tutte le letture e mi dà i dati delle ultime letture, delle ultime letture che io ho fatto con col glucometro oggi mentre mi bucavo le dita in redazione. Certo, se tu invece avessi dei dati di giorni, di settimane, come i medici consigliano, soprattutto per chi soffre di diabete, esatto. Ecco, tu hai tutto il grafico già a posto, che in teoria magari a un medico evoluto potresti già direttamente mandare sul... Esattamente, vedi, io nella mia applicazione ho le statistiche, mi fa la media della glicemia, mi dice se la glicemia, in quanti, in che percentuale ho misurato una glicemia alta, ad esempio mi dice dice 33% era molto alta, nel 67% era alta, vabbè probabilmente oggi ho mangiato un po'. Sì, poi abbiamo visto che hai mangiato i carboidrati, hai mangiato qualche dolce, insomma. Però allora Enrico, io direi che adesso facciamo una pausa perché è il momento della viabilità e poi proviamo invece la pressione. Esatto, quindi con la glicemia è andato tutto per il verso giusto. Poi se gli ascoltatori hanno delle domande, però tutto molto semplice, perché ripeto, io non sono molto abituato a fare queste cose, tutto ha funzionato nel migliore dei modi. Dopo due o tre prove, devo dire che anche Cristian mi ha dato qualche dritta per come prendere il sangue. Sì. Allora, sono le 15.45 e 17 secondi, quindi diamo la linea mentre si medica, mentre si medica Enrico Pagliarini, e poi proviamo altri aggeggi utili per la salute. A tra poco. Feel the pressure, rieccoci su Radio 24 col Sabato del Villaggio. Poi stiamo sperimentando anche con Periscope perché ecco, se vedete Enrico Pagliarini con Periscope, perché insomma, stiamo anche cercando di capire quali possono essere gli usi utili di Periscope. Torniamo a spiegare che cos'è Periscope. Esatto. Assieme a Meerkat è una delle due applicazioni che è scoppiata nelle ultime settimane dopo una famosa fiera che si tiene a Austin in Texas, per fare trasmissioni video live, quindi in diretta, che possono essere viste dai follower di Twitter. Esatto, ed è quello che stiamo sperimentando in questo momento. Già la scorsa settimana ci siamo divertiti, però secondo me al di là del momento dell'entusiasmo e però del bella cazzeggio, bella come la radio non c'è niente. Ah no, bella come radio non c'è niente. Però al di là del momento dell'entusiasmo e del cazzeggio dobbiamo capire anche se c'è qualche utilità pratica. E ad esempio che non faccia la fine come di Second Life, che tutti parlavano di Second Life, poi Second Life è finita. Certo. E quindi noi abbiamo provato dei glucometri, però mi suggerivi nella pausa di chiederti quanto costano effettivamente. Quanto costa un glucometro che si possa abbinare allo smartphone? Facciamo l'esempio di questo, ma poi ci sono altre marche. Questo di iHealth, health significa salute in inglese, iHealth, che è una marca americana. Questo costa un centinaio di euro, grosso modo. Devo dire che non si può paragonare con un glucometro tradizionale, perché questa è un'altra cosa, si collega allo smartphone e quindi questa cosa la fanno solo questi tipi di glucometri. Io presumo che nel giro di qualche anno tutti i glucometri saranno così. Parliamo che naturalmente possono, allora di ad esempio di quelli tradizionali ce ne sono alcuni che hanno un collegamento, una pinnetta USB dentro che si possa. Però ecco, così è ancora più rapido, anche perché ormai con lo smartphone e col tablet facciamo tutto col Bluetooth. Io ho omesso di dire all'inizio, ma questo vale per tutti gli strumenti che si connettono in Bluetooth, che bisogna fare il cosiddetto accoppiamento all'inizio, lo smartphone si devono parlare. È un po' come quando entriamo in automobile, dobbiamo accoppiare il telefono se vogliamo parlare in viva voce in automobile con il viva voce dell'automobile. Certo. Questa è una cosa che diciamo in molte automobili ormai è diffuso, quindi molti ascoltatori saranno abituati. Ci proviamo la pressione. Allora, tu già una volta avevi portato un prova pressione, ma era diverso. Era da polso. Quindi ci sono varie marche. Sì, ci sono varie marche. Adesso parliamo di prezzi, appunto. Ma questo costa poco più di 100 euro, 120 euro, una cosa del genere. L'abbiamo detto quanto costava quello, un centinaio anche quello. Sì. Poi, naturalmente, immagino che nei prossimi mesi usciranno altri prodotti, si diffonderanno un po' di più, si abbasseranno anche i prezzi. Certo. Anche un glucometro fatto da poco, sempre da iHealth, che è un po' meno sofisticato, ma i dati fondamentalmente sono poi gli stessi, che costa 20 euro. Pochissimo, no? Certo. È una cosa molto piccolina, molto facile, che si deve attaccare addirittura allo smartphone, ma insomma molto facile. Allora, qui abbiamo un sistema per provare la pressione, pressione arteriosa, quindi una esperienza che abbiamo visto fare o che facciamo quando andiamo dal medico. Naturalmente tutto ciò non è che sostituisce il medico, però se noi vogliamo, insomma, sono degli esami che tutti, ci facciamo quotidianamente, esatto. Chi più chi meno quotidianamente, ecco. Esatto, diciamo che se tutti i giorni, non è che tutti i giorni possiamo andare dal medico, se tutti i giorni vogliamo provarci la glicemia o la pressione, stiamo facendo il caso. Poi ci sono sia iHealth che Cardio, hanno anche la bilancia che si connette, mamma mia, questo è ancora che ti più dice comune subito, sì. Ti dice subito che peso hai, ti fa la statistica. Io mi sono scaricata un'app e li metto manualmente, in quel caso c'è la bilancia Bluetooth che automaticamente trasmette allo smartphone e quindi mette in fila tutti i vari pesi, che ne so, anche durante la giornata. Ripetiamo che sono riservati e privati questi dati, sì, non, sì, è che, sì, sì, non è che no, non è che uno li mette su Twitter pubblico. O su, ecco, no, su Facebook, no, no. Ecco. Quindi si possono condividere, come dicevo prima, con familiari, cioè decidi tu con chi, certo, condividerli, oppure addirittura col medico. E quindi questo è sicuramente interessante. Quindi, vabbè, prima proviamoci la pressione. Hai fatto, ti sei bucato le dita così in un momento un po' splatter, adesso ci fai uno strip? Sì, adesso io mi sollevo. La radio la non si vede, chi ci sta guardando, vabbè, insomma, con l'app di Periscope invece. Faccio una cosa che è facilmente invece immaginabile, no? Siccome quando si va dal dottore si solleva la manica. Si solleva la manica. Allora io, ecco qui, vedete, cioè vedete, sentite che cosa succede. Allora io apro il manicotto, esatto, brava Marta. Accendo la mia applicazione, perché questo si comanda dall'applicione. Si comanda, ah, ecco, non è l'aggeggio che è, ma è l'applicazione che decide, sì, sì, di far funzionare. Esatto, esatto. Allora io apro il mio manicotto, mi infilo proprio come si fa con uno strumento tradizionale. Sfigmo manometro tradizionale. Questo sull'applicazione è già si vede già il tasto start. Ah, ecco, ecco, vediamo. Volete farlo, poi far vedere? Ecco qua, sull'applicazione c'è il tasto start verde. E quindi io sono pronto, mi chiudo con la strip classico, faccio start. C'è il tuo, attenzione, amico ed esperto Giardina che dice che questo rumore è che sta gonfiando il, che è sicuro che avrai la pressione troppo alta per troppo zampone. Sono un po' troppo emozionato, forse, non so. Comunque vediamo l'emozione di provarsi la pressione in diretta, gonfiando. Però poi appoggialo adesso, il braccio, sì, appoggio il braccio, sì, così sono più bravo, ecco. Allora, dovrei stare un po' più tranquillo, forse ci avrò la pressione un po' altina. Sì, adesso, vabbè, la pressione in comunque diretta non credo sia un 135,98. Forse la bassa è un po' la minima, vabbè. Forse è un po' altina, eh? Non facciamo, so se c'è qualche medico, facciamo, però è, insomma, facciamo in una prova. Allora, facciamo, allora, naturalmente questa può andare nella statistica. C'è anche, pensa che bello, c'è anche la modalità visitatore. Cioè, se io se tu la vuoi far provare a qualcun altro che non entri nelle tue statistiche. Bravissima, esatto. Se adesso io faccio provare la pressione a te, potrei dire visitatore, così non mi entra nelle statistiche. Allora faccio di nuovo qualcuno start. Ci dice che probabilmente è il caffè, hai bevuto il caffè, sì, prima dell'onda il caffè, sì. Ecco qua, sentiamo il rumorino del manicotto che si gonfia. Beh, devo dire che appunto nel momento in cui una persona deve comunque comprarsi un misuratore, questi sono dei gadget utili, cioè la funzione è quella normale di un misuratore normale di pressione, però con il vantaggio appunto di poter schedare tutto automaticamente nel proprio smartphone. Deve avere lo smartphone. Certo, e abbiamo detto in questi casi, in questo momento stai usando un iPhone, però tu c'è stesso un po' lì. La minima un po' alta, c'è 135, c'è. Di solito io la pressione è perfetta, io quando vado dal medico. Sicura gli ascoltatori. Un donatore di sangue. Un donatore di sangue. Tolgo il mio. In tanti chiedono subito se sono affidabili con misuratori, perché ci si chiede, ma sì, gadget elettronici o misuratori affidabili? No, abbiamo ancora un minuto per parlarne. Sì, siamo già ad una direi seconda generazione di questi strumenti. Questi strumenti sono assolutamente affidabili, sono state fatte delle prove, quindi non sono certo il medico, ripetiamo, però sono affidabili come lo sono gli strumenti che noi ci portiamo a casa, quindi hanno un livello di tecnologia molto elevata, oramai tecnologia costa poco e quindi si possono fare strumenti molto affidabili anche con... Però devo dire, questa domanda è una domanda corretta e giusta, tutti la fanno, ma oramai l'esperienza, certo, e anche le ricerche che sono state fatte ci dimostrano che questi strumenti sono, insomma, affidabili e si possono utilizzare. Chiocciola M. Morellini ci chiede se si possono fare più profili per più familiari. Sì, dipende dalle app, dipende dagli strumenti, comunque okay, si possono fare anche queste cose. E, poi devo dire che si possono addirittura, questa è una cosa che non abbiamo detto ma interessante, si possono addirittura mettere in statistica anche i luoghi dove ci si prova la pressione, quindi uno dopo magari un mese potrebbe vedere, che ne so, se va spesso al mare ha una reazione diversa, ah, certo, alla pressione, che può essere una cosa, oppure va in montagna e uno dice, ah guarda, quando sono in montagna ho una pressione diversa, che immagino, se io non ho competenze mediche quindi potrei dire delle stupidaggini, ma insomma giusto per far capire agli ascoltatori quello che sta succedendo. Ci chiedono un'ultima cosa, abbiamo qualche secondo, se esiste anche un termometro che faccia una statistica. Direi di sì, ma non ne sono certo. Allora, dovrei andare a cercare. Un compito a casa, cerca se c'è un termometro. Noi ci sentiamo la prossima settimana, il sabato del villaggio. Noi invece ci diamo la linea tra poco, perché adesso è il momento del giornale radio delle 16. Ciao, ciao. A tra poco. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, i nostri liberi consigli per il fine settimana, insieme fino alle 17 e poi fino alle 18 con la terza ora, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci, il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Serie TV, cosa sta arrivando di nuovo sui nostri schermi, cosa non dobbiamo perdere? Poi i libri, questa volta per bambini e ragazzi. I consigli per questi giorni di relax? Beh, un buon disco e un buon bicchiere di vino, con moderazione e soprattutto affidandosi al parere di un super esperto in abbinamenti. Ma prima andiamo al cinema. La cosa più importante della vita sarà sempre la famiglia, le persone che sono qui, adesso. Ecco cosa è reale. Pronto? Dominic Toretto. Tu non mi conosci. Ma mi conoscerai. Chi è stato? Ricordi Owen Shun? Questo è suo fratello. È un killer delle forze speciali. Hanno creato un mostro. Un'ultima corsa. Anche nel weekend di Pasqua si può andare al cinema, perché no? Ci sono un sacco di nuove uscite, effettivamente cinematograficamente per le uscite è un po' come gli altri, questo weekend sono usciti un sacco di film. Sentiamo un po' che cosa vale la pena o che cosa non vale la pena vedere dal nostro Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Ciao, ciao Marta, buona Pasqua a tutti. Sì, assolutamente, anzi direi che è alta stagione questo weekend, perché portarsi a casa anche il primo lunedì, diciamo dopo Pasqua, e quindi un lunedì festivo in questo aprile diventa tanta roba, come si suol dire, fra giovani. Allora, siamo partiti con Fast and Furious 7. Ecco, direi che siamo partiti ed è partito in una maniera strabiliante questo film, che ha avuto immediatamente un passaparola positivissimo da parte dei critici, che magari a volte sono un po' meno, no? Così avvezzi a elargire buoni propositi per film, per saghe, giunte al settimo capitolo. E invece di questo settimo capitolo veramente ho sentito parlare da più di uno addirittura di capolavoro, ed effettivamente è un film molto molto ben riuscito. C'è questo tema di Paul Walker, morto nel 2013, sì, ripreso, fatto rivivere nel cinema, a volte anche con l'ausilio di controfigure dei suoi fratelli, un po' col computer, insomma c'è un po' questa cosa che ricorderete aveva animato anche il dibattito ai tempi del Corvo con Brandon Lee, piuttosto che di Blues Brothers 2000, e però stavolta veramente in un ruolo da protagonista. Ma non è tutto qui il film è come sempre adrenalina, inseguimenti, macchine, polizia, ma è anche una sorta di enfatizzazione di tutti questi ingredienti che tengono lo spettatore decisamente attaccato allo schermo. schermo. Pensate che in Italia, primo giorno di programmazione, giovedì scorso, 1.350.000 euro di incasso, 10 volte più di Cenerentola, 15 volte più di Into the Woods. Io veramente penso che potrà essere uno dei maggiori incassi dell'anno. Film italiani, ci sono almeno due uscite interessanti. Assolutamente, sono tante questa settimana. C'è anche la scelta di Michele Placido, per esempio, che è un po' quello forse più drammatico. Però io volevo soffermarmi su due film. Uno è Tempo instabile con probabili schiarite, titolo che abbiamo definito Wertmülleriano prima fuori onda, per questo film di Marco Pontecorvo, lo ricordate col suo esordio con Parada, figlio d'arte insomma del grande Gillo Pontecorvo, con un cast che annovera Luca Zingaretti, Carolina Crescentini, Lillo del duo Lillo e Greg, stavolta senza Greg, Lorenza Indovina e John Turturro, in un ruolo che è un po' più di un cameo. John Turturro si è molto innamorato del nostro paese, che è stato anche il suo, se vogliamo, no? Negli Avi, e questa volta fa una sorta di esperto del petrolio texano che arriva nelle Marche, dove per caso nel giardino davanti a una cooperativa che produce divani, che è in crisi e che rischia di far perdere il lavoro ai suoi dipendenti, insomma viene trovato il petrolio in questa sorta di giardino, scavando un pozzo viene fuori il petrolio. La cosa interessante qui è che si parla d'amicizia, lo si fa in un film magari con momenti anche di stanca, con momenti che non girano perfettamente a livello di sceneggiatura, ma lo si fa utilizzando un registro che è anche surreale, che è un registro nel cinema recente italiano abbastanza atipico, e questo me lo fa star simpatico in un certo senso, capito? Quindi Tempo instabile ma con probabili schiarite. Non ho visto e voglio sapere da te se vale la pena andare a vedere Soldato semplice di Paolo Cevoli. Io non l'ho ancora visto. Guarda, è un film, è un film coraggioso, e sono contento che un personaggio come Paolo Cevoli, che potrebbe tranquillamente adagiarsi al successo televisivo da comico, andare in giro a far serate nei teatri di provincia e portare a casa la pagnotta tranquillamente, lo ricordate, il patacca romagnolo di tanti programmi comici, ecco, che voglia soffermarsi su un momento della storia italiana come la Prima Guerra Mondiale, che voglia raccontarla con gli occhi di un antieroe, di uno che era appunto un patacca romagnolo fino a quel momento, ma che di fronte a una scelta importante deve prendersi delle responsabilità, e lo fa. È un film molto alpino, molto di montagna, molto di guerra, ma anche molto, molto romagnolo. Magari anche qui lui ci si è buttato a capofitto, lo ha scritto, lo ha diretto, lo ha interpretato, lo ha prodotto, quindi rischia tanto di se stesso, e questo coraggio va ammirato, e secondo me va ammirato andando al cinema a vederlo. Poi magari scopriremo che non è una regia alla Martin Scorsese, che gli effetti sono quelli che sono, ma insomma non è forse quello che ci si aspetta da questo film, che invece il raccontarci l'uomo di fronte alla grandezza della guerra e anche alle miserie che la guerra comporta, e in questo secondo me Cevoli è riuscito nella sua impresa. L'appuntamento invece con te, Franco, più tardi, Rosa Purpura, dopo il GR delle 18. Dopo il GR delle 18 saremo qui a raccontarvi con più dovizia di particolari quello che abbiamo accennato, a farvi sentire le interviste e a Cevoli e a Zingaretti, e a onorare nella nostra apertura il grande Manuel de Oliveira, che ci ha lasciato in questi giorni a 106 anni, buon'anima, insomma, lui se li ha giocati tutti fino alla fine, morto abbarbicato alla macchina da presa. Avremo anche un pezzettino di un'intervista che mi rilasciò tanti anni fa Stefania Sandrelli, che aveva lavorato con lui in un film parlato e che raccontava proprio il rapporto con questo già allora 96enne maestro del cinema. Insomma, è un pezzo di cinema che se ne va, ma per una volta non possiamo veramente dirgli che grazie, perché tutto quello che poteva dare ce l'ha dato. Grazie anche a te, Franco, quindi più tardi con la Rosa Purpurea. Ciao. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme dopo le informazioni per il traffico, che sono particolarmente preziose in questi sabati in cui, lo so, siete in giro per andare in vacanza, per andare in gita, sono molto molto contenta, ma nel frattempo potete anche tenerci compagnia. Il mio account di Twitter è @MartaCagnola, l'hashtag è @CancellettoISDV, e poi c'è il numero per i vostri sms 349-238-6666, anche per portarvi a casa le coppie di biglietti per le 7 date dei concerti di Enrico Ruggeri, Macerata, Milano, Torino, Lucca, Brescia, Campione d'Italia e Roma. Ci sono 7 coppie di biglietti, basta mandare un sms al 349-238-6666 con il vostro nome, la città, la tappa che preferite e il titolo dell'ultimo singolo di Enrico Ruggeri. Ora però è il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. That doesn't go away. Siamo in clima favole, Alessandra, siamo in clima favole, sì, per questa vigilia di Pasqua. Di cosa ci parli? Io vorrei parlarvi di un po' di libri per bambini e ragazzi, magari da associare all'uovo di cioccolata. Insomma, non regaliamo solo le uova di cioccolata, anche un bel libro ai bambini e ragazzi potrebbe andar bene. Poi questa settimana c'è stata la fiera del libro per bambini e ragazzi di Bologna, quindi ti dico, ci sono una serie di cose di cui parlare, mica da ridere. Mi piace, uovo e libro, tutte e due, bene bene bene. E hai subito davanti questo libro che io sto guardando, anche Valeria in regia, lo stiamo guardando con grande desiderio perché è bellissimo. Il libro Toc Toc alla radio. Eh sì, perché quella che stiamo ascoltando è la colonna sonora del film Cenerentola. Si sta parlando tantissimo di Cenerentola proprio per il film, e quindi la si vede in tutti i libri. Io ne ho scelto un'edizione particolare. Cenerentola si intitola chiaramente, fa parte della collana Fiabe Preziose della De Agostini con le illustrazioni di Valeria D'Ocampo. Perché ho scelto questo volume in particolare? Beh, ci sono dei disegni bellissimi, innanzitutto è dato molto spazio alle illustrazioni, e poi alla fine c'è una sorta di backstage delle illustrazioni, cioè come si è arrivati a fare determinati disegni, quindi c'è il bozzetto e poi insomma si va avanti. E secondo me può essere bello sia per i bambini che per gli adulti che magari vedono questo backstage. Belle, belle, le illustrazioni sono bellissime. Tra l'altro Cenerentola, che ha sbancato al box office, bisogna anche segnalare che per le bimbe di tutte le età che avessero voglia di principesse, su Sky Cinema ha creato un canale fino al 12 aprile, Sky Cinema Principesse. Oddio, già vedo la Marta Cagnola sintonizzata. Sì, a me fa venire un po' l'orticaria il canale Principesse, no, invece dai, tu sei l'animo più romantico. Sogniamo un po', concediamocelo Alessandra, noi sempre così serie, un Hai po' ragione. Di principesse ci andrebbero bene. Bellissimo questo libro con dei disegni che sì, vi mostriamo alla radio. Twittiamolo. Adesso twittiamo, diciamo. Età? Allora, consigliato dai 4, io direi ai 10 anni, io anche ai 12-13, perché a 13 anni le favole Io le leggerei ancora. A proposito di favole, beh, questa non è esattamente una favola, è un libro molto famoso, ma ascoltiamo un audio che ci riporta subito a quell'atmosfera. Se qui sono tutti come lui, devo stare attenta a non farli infuriare. Questa poi è buffa. E se il consenso unanime si ostacolo non c'è. Un buon non compleanno, un buon non compleanno, un buon non compleanno per noi. Beh, buon non compleanno, Alessandra. No, Marta Cagnola lo dice perché io ho fatto una gaffa terribile la scorsa settimana in radio, perché sono arrivata con una torta meravigliosa handmade, fatta con le mie manine, facendo gli auguri a una nostra collega. Ho sbagliato chiaramente il mese, il suo compleanno è il 30 aprile, io avevo preparato la torta per il 30 marzo. Accidenti, vabbè, capita, vabbè, si mangia una torta in più. Un buon non compleanno. Un buon non compleanno, Alice nel Paese delle Meraviglie. Che dire, sempre d'attualità, però in questo periodo di più, perché? Sì, se ne sta parlando tantissimo quest'anno perché Alice nel Paese delle Meraviglie compie 150 anni, quindi ci sono nuove edizioni, escono fuori articoli, anche commenti su quale potrebbe essere il significato nascosto di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché insomma è un libro, lo ricordiamo, di Lewis Carroll, che si legge anche a più strati, insomma può essere per bambini, semplificato, ma può essere anche un libro interessante per gli adulti. Io ti ho portato una versione diversa di Alice nel Paese. No, non ci posso credere, mal dovreste vederlo. Adesso vi mandiamo la foto. La foto su Twitter. No, allora, bellissimo. È la versione di Alice nel Paese delle Meraviglie, scritta niente poco di meno che Geronimo Stilton, pubblicata. Ma Alice da è una topolottina. E quindi Alice è una topolotta. Insomma, Geronimo Stilton ormai è diventato un brand internazionale e italianissimo, ma insomma, ha venduto 30 milioni di copie in Italia. Hanno calcolato che nel mondo ogni minuto viene venduto un libro di Geronimo Stilton. Però, accidenti. Quindi insomma adesso è diventato un autore, Geronimo Stilton, che si permette, da topolino giornalista qual è, di scrivere e riscrivere le altre favole. Questo è un libro consigliato dai 4 anni, Alice nel Paese delle Meraviglie di Geronimo Stilton. Beh, dai 4 anni non sanno leggere tutti, glielo leggiamo noi. No, bello, no, vabbè, ci sono le illustrazioni, e quindi insomma tutto molto colorato. Bellissimo, fascino ancora di Alice, quindi dopo 150 anni. Fascino ancora di Alice. Tra l'altro, ci sono dei fan, come dire, accaniti di Alice nel Paese delle Meraviglie. Per esempio, Lella Costa, che alcuni anni fa aveva anche fatto uno spettacolo teatrale tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice nello Specchio. E proprio un paio di anni fa chiacchieravo in una conversazione pubblica con lei di Alice e lei così mi raccontava la sua fascinazione per Alice. Io capisco che Alice possa inquietare per questa sua libertà assoluta. In realtà però lei era molto precisina, eh? Era molto che cercava di tenere tutto sotto controllo, questa cosa del piangere ma non indulgere nel pianto, questa frase straordinaria di Alice che diceva comunque anche nelle difficoltà, nella solitudine, nella paura, nell'essersi persa in posti davvero spaventosi, dire no, io vado avanti, io indietro non ci voglio andare, che forse da lì che è nata una delle frasi del 77, insomma di quegli anni lì in cui non a caso era nata una radio che si chiamava Radio Alice, e uno degli slogan di Radio Alice era non faremo un passo indietro nemmeno per prendere la rincorsa. Quindi credo che Alice sia penetrata in noi con una capacità di scardinare quello che, i saperi, di scardinare i luoghi comuni, di scardinare i punti di vista. A ogni paragrafo trovi un incantamento nuovo. Bella questa visione di Alice, di Lella Costa. Alessandra, parlerai anche di Alice nel Cacciatore dei Libri? Sì, guarda, ne parlerò in modo un po' insolito, perché parlerò di una Alice nel Paese delle Meraviglie, immaginata in, come dire, in epoca contemporanea, fa la food blogger ed è malata di Twitter, quindi dovete aspettare le 22 per sapere di cosa si tratta. E poi il podcast, e poi basta iscriversi sul sito di Radio 24, radio24.it, ci sono tanti spunti nuovi e poi tutte le puntate del Cacciatore di Libri. C'è un altro libro di cui si parla tantissimo. Io so già che mi stai parlando di quel libro lì perché mi hai tirato fuori una vignetta in latino. Vai, dai, rispondere no, al tuo allora, latino, dai. Gregori narra nobis de puerizia tua, ecce commentari mei, nunc abeatis queso. Poi la cosa che mi piace di più è il flash, l'ho scritto fulgur. Fulgur, allora di che stiamo parlando? Di De inepto puero. Indovina chi è? No, è inetto puero, poi cos'è, ragazzino inetto, insomma. Stiamo parlando del famosissimo Diario di una schiappa di Jeff Kinney, uno dei la schiappa è l'inetto puero, sarebbe la schiappa in latino, perché non è ancora uscito, ma se ne sta parlando tantissimo, perché il 6 maggio uscirà in contemporanea europea e poi anche negli Stati Uniti la versione in latino in 10.000 copie, quindi non sono tantissime, però insomma è un'operazione sicuramente interessante. Pensa che la traduzione l'ha fatta Monsignor Gallagher, che è un latinista ed è curatore del profilo Twitter in latino di Papa Francesco. Lui ha tradotto la schiappa in latino. Io ho finito il classico troppi anni fa, non so se sono in grado di leggere. Io lo scientifico, idem, guarda, però ti posso dire, secondo me questo è un libro consigliato per i ragazzini che iniziano appunto il liceo classico, lo scientifico, credo che si faccia latino anche al linguistico e magari vogliono un po' divertirsi, ma anche per gli adulti che vogliono mettersi alla prova. Dice, cosa mi ricordo io del latino? Vediamo un po', sfogliamo la schiappa. Ci mettiamo alla prova appena esce. Altri libri consigliati, continuate a prendere nota, comunque poi ve li twittiamo e ve li mettiamo anche sul sito. Altri libri magari ragazzi più grandi? Sì, allora parliamo un po' di adolescenti. Allora, sicuramente un libro di cui si sta parlando e che io consiglio è il famoso, è diventato diciamo un cult per gli adolescenti contemporanei, è la storia di Iqbal. È la storia praticamente di un ragazzino pakistano che viene sfruttato nel mondo del lavoro. È stato ripubblicato a distanza di 20 anni, dopo 20 anni dunque, di nuovo da Einaudi Ragazzi, il libro scritto da Francesco D'Adamo, e lo stesso Francesco D'Adamo ha appena scritto per Giunti il sequel, quindi se i vostri figli hanno letto Iqbal potete fargli leggere il sequel, che si intitola Dalla parte sbagliata, la speranza dopo Iqbal. È incredibile che siano passati già tanti anni, già 20 anni dall'uccisione di Iqbal Masih. Incredibile, consigliato quindi ai ragazzi un po' più grandi. Cosa facciamo? Saliamo ancora come età, come ultimo consiglio? Insomma, adolescenti, soprattutto ragazze, diciamo così. Io ti dico solo una parola: Divergent. Ah, quindi parliamo di film e libri. Sì, film e libri anche in questo caso, perché la saga di Divergent, la trilogia che adesso è diventata in realtà una quadrilogia perché è uscito il quarto volume, che in realtà è il prequel della trilogia, già non ci sto capendo più niente, però ti posso dire che sono libri che fanno moltissima tendenza, sono libri scritti da Veronica Roth e vengono definiti romanzi distopici, ossia ambientati, come dire, in un futuro prossimo, c'è una realtà apocalittica, e vanno moltissimo di moda fra le adolescenti. Quindi segnatevi questo nome, Veronica Roth. Mi piace quando le ragazze si dedicano alla lettura, magari sognano, magari poi si avvicineranno anche a letture più impegnative, però mi fa molta molta tenerezza, mi piace vedere le adolescenti che leggono. Dalle principesse alla Cenerentola. Sì, mi piace vederle, ad esempio, quando ci sono i red carpet dei film, dei loro beniamini che agitano i libri da cui sono tratte. Mi piacciono tanto tanto, le adoro. Alessandra, hai un ultimo libro davanti a te, sono curiosa di sapere di cosa si tratta. Allora, ho pensato anche a una mini rubrica, visto che oggi non facciamo Oltre le sfumature. Beh, ovviamente. No, dai, siamo un po' più sui ragazzi più questa sui ragazzi volta, dai. Oggi. E allora ho pensato ai libri per grandi che ci fanno tornare bambini. Io ho scovato nella mia libreria un volume vecchissimo, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, pubblicato da Delphi. All'epoca l'avevo pagato 11.000 lire. C'è ancora il prezzo dietro, l'avevo comprato forse anche usato. È un classico praticamente della risata, e io con questo libro ho riso come se fossi una bambina. Se io dovessi pensare a un libro che mi riporta all'infanzia, io ti direi tutti i libri di Gianni Rodari, perché io appena rileggo Gianni Rodari ritorno bambina istantaneamente, perché è un po' un simbolo della mia infanzia. Hai detto niente, i 15 tu li leggevi? Io non li ho mai avuti. Ah, i 15 erano meravigliosi. Adesso guarda, vado a casa e ti posto la foto dei miei 15. Ma io, guarda, sono ancora sotto shock, perché io non avevo i 15 da piccola. Andrò a vedere se si trovano i 15 usati, perché io mi ricordo invece un'enciclopedia che avevo a casa di mia nonna, che si chiamava Vita Meravigliosa. Secondo me la cagnola ha avuto una strana infanzia e adolescenza. Non ho avuto 15, cioè, per cortesia, twittate che avete a casa i 15, mi twittate una foto anche di un libro dei 15, fatemi capire che non sono sola nell'universo. Era bello perché quando arrivavi a casa degli amici c'erano questi libri con i colori inconfondibili, 15 si riconoscevano subito. Alessandra, grazie per tutti questi consigli. Quindi uovo di Pasqua e libro per bimbi e ragazzi, mi piace molto. Twittiamo subito i titoli, così insomma potete ritrovarli anche su Twitter, appunto, @ Ale Teddina, oltre a @ Marta Cagnola. Ci ritroviamo la prossima settimana ancora con Alessandra Tedesco e con i libri. Il sabato del villaggio. Eccoci insieme per la seconda parte della seconda ora del sabato del villaggio, in un sabato che però non è proprio sabato, non è del tutto sabato, ce lo ha detto il nostro Giovanni Capuano parlando di questo sabato in cui c'è il campionato di calcio. Giovanni, allora, tutti gli aggiornamenti sulla Serie A, come sta andando? Ve l'ho detto e ve lo confermo, beh, intanto tanti gol, quindi anche la Serie A sta festeggiando questo sabato di Pasqua. Do rapidamente i risultati, stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora delle partite del pomeriggio. C'è appena stato il gol dell'Atalanta, che ha accorciato le distanze in casa contro il Torino, il gol di Piniglia, mezz'ora del secondo tempo, Torino avanti 2-1, gol di Quagliarella e Glick, tutti nel primo tempo. Sta vincendo 2-1 anche la Lazio sul Cagliari, fuori casa Klose e Biglia su rigore. In mezzo c'era stato il pareggio di Sau per il Cagliari, che gioca in 10, Biglia ha sbagliato anche un altro calcio di rigore. Lazio che in questo momento è terza da sola in classifica. Poi Genoa-Udinese 1-1, De Maio per il Genoa nel primo tempo, il pareggio di Terò al 23esimo della ripresa. Clamoroso San Siro, 1-1 tra Inter e Parma. Inter che non riesce in questo momento, e manca ormai un quarto d'ora, a battere l'ultima in classifica. I gol di Guarine e di Lila, tutti nel primo tempo. Ha appena pareggiato il Palermo contro il Milan, calcio di rigore di Dybala, nel primo tempo aveva segnato poco dopo la mezz'ora Cerci. E poi c'è l'1-0 del Sassuolo contro il Chievo, gol di Berardi su rigore nel primo tempo, e il 3-0 del Verona sul Cesena, doppietta di Toni, gol di Juanito Gomez. Toni, il vecchietto che è arrivato anche quest'anno in doppia cifra, 15 gol in campionato. Giovanni, allora l'aggiornamento per la Serie A dopo il giornale, durante il giornale radio delle 17. Durante il giornale daremo i finali. I finali. Ricordiamo che si va lunghissimi stasera, 18:30 Fiorentina-Samp, alle 21 Juventus-Empoli. Abbiamo iniziato a mezzogiorno e mezzo con Roma-Napoli 1-0, gol di Pjanic. Non ci facciamo mancare nulla. Beh, un bel sabato per gli appassionati di calcio, grazie Giovanni. Noi invece adesso non so se tu sei un appassionato di serie TV. Le guardi le serie un po'? Io sono un Fox TV Addicted, si può dire o stiamo facendo pubblicità? No, si può dire, si può dire, allora... noi siamo democratici, le citiamo tutte, siamo per tutti i gusti. Adoro Castle. Allora, adesso noi ascoltiamo tutte le novità, cosa non dobbiamo perderci? Vabbè, entriamo subito in atmosfera con una musica. Empire State of Mind. Let's go. Things are looking up. I'm ready for tonight. I feel good, real good. Can't nobody hold me down. I'm gonna take advantage of all these flashing lights. Cause it's the best time for it. We can do it. Beh, siamo in clima hip hop, chissà come mai, perché c'è una serie che a me incuriosisce moltissimo. Voglio sapere tutto di questa novità e delle novità di quello che, insomma, non dobbiamo perderci in questo periodo. Torna insieme a noi la nostra super esperta di serie televisive, che potete leggere sempre su Corriere.it, potete vedere sempre nella sua rubrica TV USA, ma anche leggere su Io Donna Online nella rubrica TV Insider. Buongiorno a Stefania Carini. Stefania, buongiorno. Eccola, buongiorno a voi, qui. Anche se avete già fatto un po' di serie TV, hai fatto IAR, mi sa, compagnia. Abbiamo provato, siamo stati un po' splatter, c'erano misuratori, gocce di sangue, però insomma, beh, sì, IAR, esatto. IAR archiviata. Invece adesso novità, mi piacciono queste serie che parlano di musica e del mondo della musica. Guarda, so che sei una appassionata di Nashville. Io sono pazza di Nashville. Allora, Empire invece si dedica all'hip hop, al rap, però l'idea è quella, cioè mescolare racconto televisivo e musica, anche perché così hai un prodotto che una volta si sarebbe definito multimediale, qualche anno fa convergente. Ma diciamo è un prodotto che può andare in TV, ma va anche su Spotify, insomma si allargano le possibilità della televisione. È una storia in che senso che parla di musica? Per esempio Glee era ambientata in una scuola. Esatto, invece qua siamo una famiglia potente, una famiglia che possiede una casa discografica. Il padre che ha fondato questa casa insieme alla moglie, alla casa discografica insieme alla moglie, in maniera probabilmente un po' losca, sta male, è malato e quindi deve decidere a chi lasciare il suo impero musicale, e quindi mette in competizione fra di loro i tre figli. Ogni figlio ha la sua personalità, c'è quello che non sa fare musica ma sa fare i soldi, c'è quello che sa fare musica ma è giovane, irruento e così via, e c'è l'altro più raffinato, che è sensibile, omosessuale, e questo è un problema all'interno del panorama musicale di colore, e quindi tutti e tre devono in qualche modo combattere per guadagnare il potere, i favori del padre e vincere la sfida e guadagnarsi l'impero. Bella, questo, mi piace un sacco Empire. In questo c'è un personaggio bellissimo, che è quello della madre, che è quella che ha coperto probabilmente il malaffare che c'è dietro, è andata in prigione, c'è probabilmente un giro di droga, perché è anche un po' un gangster movie questa serie, oltre a essere un family drama. Lei esce di prigione ed è un personaggio fenomenale, Cookie. Ha in sé tutte le caratteristiche un po' della donna di colore, un po' trash, un po' tamarra, però con grande talento musicale, con la battuta pronta e forse la voglia anche di riprendersi suo marito, che adesso ha un'altra, ma insomma la donna della sua vita è lei. Appena cominciata su Fox Empire, invece, per quanto io so che tu sei una grande fan di Game of Thrones, ad esempio, Stefania. Assolutamente, anche qua ci sono le principesse, che però a te piacerebbero un po' meno. Sì, io sono più per le principesse un po' più classiche, un po' più romantiche. Queste diciamo che col romanticismo hanno un po' di problemi, non è che non siano innamorate, ma diciamo che è un po' diverso il territorio in cui andiamo ad esplorare. Game of Thrones ritorna il 12, ci sarà una messa in onda in contemporanea tra America e Italia su Sky Atlantic. Qua abbiamo qualcosa molto di diverso rispetto alle principesse, forse anche questa è una saga familiare come Empire, ma come sai è un fantasy che però si vuole realistico, per cui ci sono i draghi, c'è la magia, ma quello che è interessante è la lotta anche qua per il potere. C'è un mosaico di personaggi, bisogna seguirli, è molto complessa la trama, è tratta dai romanzi di George R. R. Martin, che tra l'altro forse farà una nuova serie con HBO. La cosa interessante è che secondo me alla fine è molto più divertente ed è molto più complessa e affascinante, un racconto più bello sul potere del tanto osannato House of Cards. House of Cards, che mi pare di aver sentito rinnovato. Che è rinnovato anche lui, perché parliamoci chiaro, House of Cards alla fine parla di democrazia, di una sola forma di potere, invece, come dire, Trono di Spade le esplora un po' tutte. Forse l'unica che non esplora è la democrazia, ma quella più o meno la conosciamo, esatto. Allora è molto più interessante andare a vedere come andrà a finire, e soprattutto ci insegna un'altra cosa importante, che il matrimonio e le nozze sono forse diciamo l'evento più pericoloso a cui una persona può partecipare, perché in quel caso di solito sono sempre successe cose tragiche, ma è questo il bello di quella narrazione. Non puoi essere sicuro di niente, sei in un territorio inesplorato come i personaggi, non sai cosa accadrà, e la lotta è quella del potere, del trono, tragica, con i suoi morti, e bisogna stare attenti, insomma. Vabbè, insomma, Stefania, abbiamo parlato di impero, abbiamo parlato di troni, abbiamo parlato di tutte le forme di governo tranne la democrazia. Il collegamento viene spontaneo, io non vedo l'ora che arrivi, leggo che arriva il 21 aprile in Italia su Fox Life, esatto. The Royals. Ecco, in questo caso è la monarchia, però la monarchia inglese, quindi una monarchia che però è anche democratica e soprattutto che è, come dire, confrontamente di fronte alla TV e ai tabloid. E questa è la cosa interessante, perché finora abbiamo, come dire, visto alle volte serie dedicate a re e regine, ma di tipo storico. In questo caso i reali sono, diciamo, quelli di oggi, è la Londra di oggi, con tutti i problemi del caso. Anche qui abbiamo un problema di potere o di successione, perché cosa succede? Il primogenito muore e non sappiamo bene perché, probabilmente c'è qualcosa dietro, e ovviamente a quel punto la famiglia reale deve rivedere i propri ruoli, perché la tragedia costringe tutti a modificare il proprio percorso di vita. Diciamo che gli altri due fratelli erano un po' allegrotti, molto allegrotti. Okay. Qualcosa dovrà cambiare. La regina è Liz Early, quindi un cast perfetto. La madre della regina è Joan Collins. Straordinaria. Quindi andiamo sempre ad andare a ripercorrere quell'idea di saga familiare, perché poi ci piace vedere che i ricchi piangono alla fine. Straordinario. Io vorrei, per concludere questo collegamento, farti ascoltare una musica, farti entrare in un'atmosfera così, con un po' di batticuore, anzi un po' di strappacuore proprio. L'hanno riconosciuta subito, la sigla di Mad Men, il dolore di quando finisce una serie e finisce per sempre, perché Mad Men sta proprio per dire bye bye, ciao, finita. Sì, questo è il grande dolore che dovrò affrontare nei prossimi mesi. È arrivata la fine anche per questa serie, una serie che ha cambiato la TV insieme ad altre, una serie che ha saputo raccontare un periodo storico in maniera molto dettagliata e creare dei personaggi, non solo il protagonista interpretato da John Hamm, ma davvero anche la galleria di donne presenti all'interno della serie è molto complessa e profonda. Purtroppo tutte le belle cose finiscono, anche se bisogna anche ricordarsi che la TV chiude in maniera un po' diversa rispetto al cinema o anche ai romanzi. C'è sempre un'idea di sospensione, no? Di qualcosa che può tornare. Non è una vera fine totale, per così dire. Tant'è che poi le cose ritornano, perché l'anno prossimo tornano X-Files, torna Twin Peaks, chissà mai, chissà, che prima un poi anniversario. Troviamo, esatto, a un ritorno di Mad Men. Certo, in questo caso parliamo, come dire, di una, di un racconto estremamente raffinato. Non ho idea di come si concluderà, se sarà un finale aperto come Il Soprano o invece una, chiuso totalmente. Il Matthew Weiner ha deciso di cambiare totalmente idea o ha deciso di andare da tutt'altra parte, di chiudere per sempre con quel mondo. Naturalmente tutto questo con molta nostalgia per noi spettatori. Io ho già nostalgia di Downton Abbey, manca ancora una stagione, quella finale. Grazie Stefania Carini per essere stata grazie con noi. TV Insider, Io Donna, TV USA su Corriere.it. Grazie Stefania, alla prossima volta, insomma, speriamo di averti presto ancora al Sabato del Villaggio. Adesso gli aggiornamenti per chi viaggia e poi parleremo di musica e vino. Il Sabato del Villaggio. Beh, io devo ringraziare Remo che ci ha mandato un sms al 349-238-6666 mentre sta cucinando, sapete dove? Dalla Dig Seychelles. Sta cucinando pesce, io già penso a quel fantastico pesce alla creola, al granchio, queste cose che cucinano le Seychelles, mamma mia che meraviglia. Grazie Remo che ci ascolti dalle Seychelles, un po' di invidia. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, non solo per scriverci, perché poi a me fa particolarmente piacere farvi compagnia, ma anche che voi mi facciate compagnia il sabato pomeriggio, ma anche, e c'è ancora qualche minuto, insomma potete ancora provarci a portarvi a casa una delle coppie di biglietti per le 7 date dei concerti di Enrico Ruggeri: Macerata, Milano, Torino, Lucca, Brescia, Campione d'Italia, Roma, tra metà aprile e il mese di maggio. Basta mettere nel messaggio 349-238-6666 il vostro nome, la città, la tappa che preferite e il titolo dell'ultimo singolo di Enrico Ruggeri. Aspettiamo i vostri sms e adesso siamo pronti per fare qualcosa che ci permette di rilassarci molto, cioè ascoltare buona musica e magari berci insieme un buon vino. Grande moderazione, sicuramente non mentre state viaggiando, ma quando siete arrivati nella meta del vostro relax del weekend pasquale, e poi vanno anche abbinati bene. Quindi torniamo a collegarci con un amico mio, ma anche del Sabato del Villaggio. Lui si occupa di viaggi e quindi conosce benissimo la situazione dei viaggi. È un sommelier, quindi conosce benissimo i vini e anche un grande appassionato di musica. Buon pomeriggio Patrizio Righetti, ciao Patrizio. Buon pomeriggio, ciao Marta, come stai? Ah, io benissimo, c'è anche qualche timido raggio di sole che sta arrivando adesso in questo sabato pomeriggio di Pasqua. Io l'ho detto, tu metti insieme tutte le più belle passioni. Allora, io vorrei abbinare dei dischi, sì, a dei vini, ah, che è il tuo la tua passione, passione la tua passione, perché l'abbiamo già spiegato, sei già stato nostro ospite al Sabato del Villaggio con molto piacere. Vanno abbinati bene musica e perché siamo abituati ad abbinare il vino al cibo, ma anche con la musica si può fare perfettamente, quindi. Ma io credo proprio di sì, proprio perché in tutti i casi è sempre convivialità. Convivialità, ascoltare un brano musicale e naturalmente bere con gli amici un buon bicchiere di vino è quello che crea atmosfera. Una volta, diciamo negli anni 70, non lo abbinavano proprio al vino il fatto che creasse atmosfera, ma era legato ad altro, al brandy. Però e direi che la musica, proprio nei momenti in cui casomai si è con amici, casomai si è in periodi, diciamo in momenti particolari, il vino serve a legare molto bene questi ricordi con la musica e tutto quanto. Mi piace. Quindi, allora, io ho preparato tre brani, cioè, ci siamo messi d'accordo, lo sveliamo agli ascoltatori, certo, perché abbiamo pensato a tre possibili atmosfere in questi giorni pasquali. Anche con Stefania Carini io ho fatto questo coming out, sono pazza di questa serie televisiva che si chiama Nashville, quindi io in questo periodo ascolto solo musica country, ecco qua. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mount, Shenandoah River, Che ci sta sempre bene. Take me home, country roads. Quindi cosa facciamo? Un bel viaggio in campagna. Sembra perfetta per la gita fuori porta. Ovviamente non mentre state guidando e non chi guida. Ma che vino abbiniamo a un bel country come questo? Vabbè, considera che questa canzone è una delle canzoni che ha avuto un numero immenso di cover. Tra le altre cose ha scatenato le fantasie di tantissimi cantanti. Cioè, chi l'ha rifatta in versione giamaicana, quindi parlando della Giamaica, chi l'ha fatta in versione hawaiana parlando delle isole Hawaii, o addirittura chi l'ha fatta in versione slovena, che è una cosa stranissima. Insomma, diciamo che è una canzone che scatena veramente, per la tranquillità del suo mood, fantasie. E allora, al posto del West Virginia, ho cominciato a pensare, a me mi è venuta in mente la Maremma del Sud. Ah, che certo. Che è una zona meravigliosa dove si trovano le vie cave, che sono questi percorsi scavati nelle colline di tufo proprio a cielo aperto, e sono meravigliosi. E in quella zona, oltre a produrre il tipico vino della zona, che sarebbe l'Aleatico, ma producono, c'è un'azienda di cui non faccio il nome, ma che produce un Malbec, che è un vitigno internazionale. Sono abituata a berlo argentino, invece un Malbec maremmano mi piace. Esattamente, un Malbec maremmano, che è qualcosa di veramente sorprendente, perché ha profumi di frutta matura, di liquirizia, di spezie e foglie di tabacco addirittura. Ah, straordinario. Quindi, insomma, straordinario. È proprio avvolgente e caldo, come la canzone di John Denver. Allora, direi. Patrizio, sentiamo un altro assaggino di canzone e almeno riusciamo ad abbinarci un altro vino. Non serve ascoltarne molto di più per capire subito che è Get Lucky dei Daft Punk, perché l'abbiamo ascoltata in tutte le salse. Quindi, esatto. Non lo so, un weekend di divertimento e perdizione, che so, in Riviera Romagnola, sì. In qualche... così, facciamo? A me Get Lucky poi proprio mi fa ricordare proprio tanto la discoteca. Di solito quando la si ascolta non si può non battere quantomeno il piede. Il piedino, no? Cosa ci beviamo, Patrizio? Ah beh, qua io starei proprio sulla festa, sul massimo della festa, e cioè io starei con un bel prosecco. Ah, prosecco, la bollicina con i Daft Punk ci sta. Oh sì sì, assolutamente, bollicine a go-go. Tra altre cose, considera che il prosecco è uno dei vini in maggiore espansione nel mondo in questo periodo, e purtroppo ha anche una delle maggiori percentuali di contraffazione, però è veramente proprio così, è un vino bello, gioioso, propriamente da festa, quindi delle belle bollicine che portano il sorriso, una gradazione che non è particolarmente alta, quindi direi che con Get Lucky il prosecco non può che essere proprio classico da festa, ecco, direi. Allora Patrizia, abbiamo solo un minuto, allora ti chiedo proprio un consiglio flash, due note le chiedo a Gian. Notte, anche qui folleggiamo in questo weekend di Pasqua, magari per chi resta in città. Francesco Sarcina, ti è venuto in mente questo Francesco Sarcina, e a cosa lo abbiniamo? Consiglio flash nell'ultimo minuto del nostro Sabato del Villaggio. Ah beh, guarda, con Francesco Sarcina è assolutamente bollicine. Facciamo delle bollicine diverse, perché siamo con lui, siamo a Milano, siamo in Lombardia, quindi non si può che pensare al Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese, e nello specifico casomai il Croisé, che è questa nuovo, diciamo così, questa nuova denominazione che hanno voluto trovare il consorzio dell'Oltrepò Pavese, che è un Pinot Nero metodo classico, rosé, e quindi metodo classico è lo stesso metodo con cui in Francia si produce lo champagne, ed è veramente un vino estremamente interessante, bollicine molto fini, molto persistenti, da godersi, diciamo così, la notte milanese. Ah, fantastico. Grazie Patrizio, il nostro esperto di vini e di musica. Il tuo account di Twitter, per chi volesse trovarti, è @PatrizioRighet, che finisce con Righet senza la i. Alla prossima occasione, grazie Patrizio. Alla prossima, ciao e buona Pasqua a tutti. Noi ci ritroviamo tra poco, perché siamo pronti per cederci la linea a Radio Tiuba tra poco.